Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questa nostra giornata di giovedì 7 novembre, ahimè fumata nera per l'incontro sull'Ilva tra l'ArcelorMittal e il governo, quindi vedremo i prossimi capitoli mentre la FIOM dichiara lo sciopero nell'azienda. Subito comunque Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nel web notiziario di Radio Bullets con le notizie che ci raccontano il mondo. Sono Barbara Schiavulli in collegamento da Corato e questi i titoli di oggi. Colombia, si dimette il ministro della difesa coinvolto in un insabbiamento. Stati Uniti, dopo 200 anni cade il divieto per i marine di usare l'ombrello quando indossano la divisa. Siria, arrestata la moglie e il cognato del defunto leader dell'ISIS al-Baghdadi. Iraq, la polizia tenta di fermare le proteste, ucciso un medico. Filippine, ucciso giornalista radiofonico. E ancora Cina, nuove regole per i giovani videogamers, non più di 90 minuti al giorno nei giorni feriali e non oltre le 10 di sera. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dal Cile. Un procuratore cileno ha annunciato che chiederà l'approvazione del tribunale per indagare su 14 agenti di polizia per presunta tortura di manifestanti in queste ormai quasi 3 settimane di intensi disordini e rivolte nel paese. Il pubblico ministero Manuel Guerra ha precisato che la sua inchiesta riguarda 2 incidenti separati durante lo stato di emergenza durato 9 giorni nella capitale a partire dal 18 ottobre. Il ministro della difesa colombiano Guillermo Botero si è dimesso sull'onda dello scandalo per non avere detto dei morti provocati da un'operazione di sicurezza contro membri dissidenti dell'ex gruppo ribelle che ha firmato un accordo di pace con il governo. Lo scandalo è scoppiato dopo che è stato scoperto che l'operazione contro dissidenti delle FARC, descritta dalle autorità come un successo, non solo aveva visto morire 14 militanti ma anche 8 minori. Il ministro della difesa è stato anche accusato di aver manipolato informazioni e prove fotografiche nel dossier della Colombia per le Nazioni Unite sulla situazione nel vicino Venezuela. Botero, 71 anni, ex imprenditore, avvocato e fondatore della Federazione Nazionale delle Imprese FENACO. Messico, dietro al massacro di mormoni alla frontiera tra Messico e Stati Uniti, 9 morti, tra cui 6 minori, potrebbe esserci una nuova banda, i Los Jaguaros, ramo del potente cartello del Sinaloa, lo dice il responsabile dello stato di Chihuahua. Secondo la CNN, sotto indagine anche il cartello rivale, la linea in competizione per il controllo del traffico di droghe e dei migranti nella stessa zona. Una persona è stata arrestata. In quel momento aveva con sé 2 ostaggi legati e imbavagliati nelle colline di Agua Priest. Stati Uniti, è andata male, proprio male al presidente Trump, che ha perso 2 elezioni su 3 nel Super Tuesday, primo test in vista del voto per la Casa Bianca. Visto che al danno spesso si aggiunge la beffa, quella che nel 2017 era stata immortalata da un fotografo in bicicletta mentre faceva il dito medio al passaggio del corteo presidenziale e licenziata per questo in tronco dal suo datore di lavoro, Julie Brinksman ha vinto una poltrona nel consiglio delle autorità di vigilanza di una contea della Virginia, battendo la sua rivale repubblicana. Proprio perché era stata licenziata, aveva deciso di entrare in politica con i democratici, che hanno tolto al Grand Old Party il controllo dell'intero Parlamento dello Stato per la prima volta in 20 anni. Il commissario generale dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'assistenza dei profughi palestinesi, Pierre Krangbull, uno svizzero, ha consegnato al segretario generale dell'ONU, Guterres, le sue dimissioni. Era stato messo poche ore prima in congedo amministrativo proprio da Guterres, in attesa dei risultati dell'inchiesta aperta nei suoi confronti per cattiva condotta. 2 ex impiegati di Twitter sono stati accusati di spiare per l'Arabia Saudita, controllando i dati di utenti privati e cercando persone ostili al regno e dati forniti in cambio di soldi. In passato solo le donne Marines potevano avere un ombrello quando erano in servizio e indossavano l'uniforme, mentre i Marines maschi erano costretti a bagnarsi ogni volta che pioveva. Per la prima volta in 200 anni il divieto è stato rimosso, ora potranno anche loro avere ombrelli quando piove, non però quando sono in mimetica. Divieto rimosso dal comandante del corpo dei Marines, David Berger. I Marines possono portare un ombrello tutto nero, semplice, standard o pieghevole a loro discrezione durante il tempo inclemente quando sono in servizio o con le uniformi, dice All Marine Corps, messaggio che dovrebbe essere diffuso stasera secondo un rapporto sul sito web della comunità militare Task Air Purpose. Novità anche per le donne Marines che potranno indossare orecchini a sfera in oro o argento. Stai ascoltando Radio Bullets. L'attacco contro un convoglio diretto verso una miniera d'oro di proprietà canadese, siamo nel Burkina Faso, ha causato la morte di 37 persone e il ferimento di 50 altre. I militari stavano scortando 5 autobus con a bordo dipendenti della Semago, appaltatori e fornitori, quando sono stati attaccati. Iran, terremoto 5.4 nel sud del paese, a ovest del porto di Bandar Abbas. E spostiamoci in Iraq, dove i manifestanti che protestano in Iraq ormai da settimana hanno preso d'assalto un ponte ieri nel centro di Baghdad. Le forze di sicurezza li hanno respinti con manganelli e gas lacrimogeni, ferendo decine di persone. Poi un medico è stato ucciso mentre aiutava i manifestanti. L'esercito ha invitato i manifestanti a smettere di bloccare strade e porti, dicendo che tutto questo è già costato 6 miliardi di dollari al paese, e ha promesso di arrestare i responsabili. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza nelle ultime settimane nella capitale, 300 i morti di un mese, e in tutto il sud sciita per chiedere ampi cambiamenti politici. I manifestanti si lamentano della diffusa corruzione, della mancanza di opportunità di lavoro e di servizi di base scadenti, compresi tagli irregolari di energia, nonostante le vaste riserve di petrolio. Sul fronte politico, il governo ha deciso di non assecondare le richieste dei manifestanti, che chiedono le dimissioni del governo. Senza un'alternativa fluida e rapida, ha detto il premier Adil Abdul Mahdi, nessuno se ne va. Siria, dopo l'arresto della sorella del defunto leader dell'ISIS al-Baghdadi, i turchi hanno annunciato anche la cattura della moglie, preso anche il cognato di al-Baghdadi. Il presidente Erdogan non ha detto né quando né dove queste persone sono state catturate. Giordania, un giovane palestinese di un campo profughi, 22 anni, armato di coltello, ha assalito ieri un gruppo di turisti in visita nella storica cittadella romana di Gerash, a nord di Amman, celebre per i suoi reperti archeologici. Prima di essere neutralizzato, l'assalitore ha ferito 8 turisti, 3 messicani, una signora svizzera, una guida e 2 guardie di sicurezza. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, 3 in condizioni serie. L'aggressore, secondo le prime indagini, non appartiene ad alcun gruppo militante. Di recente ha raccontato la famiglia, particolarmente povera, era diventato molto religioso. Israele ha rilasciato 2 cittadini giordani incarcerati per 2 mesi senza alcuna accusa. Heba al-Abadi, 24 anni, e Abdel Ahmad Meri, 29 anni. I 2 erano stati arrestati separatamente ad agosto e Meri a settembre in detenzione amministrativa, che significa che le autorità israeliane possono fermare e trattenere chiunque senza accusa o possibilità di appello per periodi prolungati. In segno di protesta, l'ambasciatore giordano aveva lasciato il paese settimana scorsa. La ragazza, che ha il passaporto giordano ma anche la carta d'identità palestinese, tornava da un matrimonio di un parente e sarebbe stata arrestata e condannata a 6 mesi per aver pubblicato sui social messaggi di incitamento, ma in realtà non le è stata formalizzata alcuna accusa. Mary invece è stato arrestato mentre attraversava regolarmente il confine, condannato a 4 mesi di detenzione. Attualmente sono 5.050 i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, 460 dei quali sono in detenzione amministrativa. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Regno Unito, la compagnia aerea low cost Ryanair ha fermato 3 dei suoi Boeing 737 dopo la scoperta di crepe strutturali. La Ryan si aggiunge così alla lista di vettori a livello mondiale che hanno riscontrato questo difetto su propri Boeing 737. Tra questi ci sono l'australiana Qantas e l'americana Southwest. Olanda, per sbaglio un pilota ha attivato il segnale di dirottamento, aereo bloccato per un'ora sulla pista. Invece all'AIA, il Tribunale Penale Internazionale, i giudici emetteranno oggi la sentenza contro un capo ribelle congolese, Bosco Ntaganda, detto Terminator, condannato all'inizio di quest'anno per crimini di guerra e schiavitù sessuale. Rischia l'ergastolo per una serie di crimini come massacri di civili nella regione di Ituri tra il 2002 e il 2003. È stato condannato per 13 capi di accusa di crimini di guerra e 5 capi di accusa per crimini contro l'umanità. 46 anni e nativo del Ruanda. Algeria e magistrati che erano in sciopero dopo un rimpasto che ne aveva colpiti 3.000 da parte del Ministero della Giustizia in quello che è stato considerato un tentativo del governo di manipolare la magistratura del paese, dopo 12 giorni di sciopero hanno raggiunto un accordo per tornare al lavoro. India, il vento ha portato un po' di tregua all'inquinamento che sta devastando New Delhi, facendo scendere la concentrazione media di PM 2,5 a 2,50, mentre domenica si è registrata una punta di 660 in alcune zone addirittura di oltre 900. Le scuole sono state riaperte, ma il traffico a targhe alterne resterà in vigore fino al 15 novembre. Fermi anche tutti i cantieri edilizi, stradali e il divieto di bruciare rifiuti e utilizzare combustibili inquinanti o generatori a diesel in tutto il territorio della capitale. Intanto però l'emergenza smog si è trasferita su Sud-Ovest. Il Central Pollution Control Board, uno degli organismi internazionali che monitorano l'inquinamento, ha reso noto che l'allarmante concentrazione di veleni esaltata da incendi negli stati di Haryana e Punjab si è spostata sulle città di Kanpur, Lucknow e Patna. Thailandia, uomini armati hanno attaccato alcuni posti di blocco nel sud e nella provincia di Yala, uccidendo 15 poliziotti e ferendone altri 5. 4 delle vittime sono donne. Filippine, un giornalista radiofonico è stato ucciso a colpi di arma da fuoco sull'isola di Negros. Dindo Generoso stava guidando la sua auto quando gli hanno sparato. Generoso è il 14° giornalista filippino ucciso da quando il famigerato presidente Duterte è entrato in carica nel 2016. Mentre i giornalisti uccisi sulle isole filippine dal 1986 sono stati 187. Generoso aveva 67 anni ed è il secondo reporter radiofonico ucciso nella stessa città in 18 mesi. Cina, non giocare ai videogiochi dopo le 22 e per non più di 90 minuti al giorno nei giorni feriali. Il governo cinese ha rilasciato nuove regole volte a frenare la dipendenza da videogiochi tra i giovani, un problema che gli altri funzionari ritengono sia la causa di un aumento della miopia e della scarsa prestazione accademica in un'ampia fascia della società. Il regolamento annunciato dalla National Press and Publication Administration martedì 5 novembre proibisce agli utenti di età inferiore ai 18 anni di giocare tra le 22 e le 8 del mattino. Non è consentito giocare più di 90 minuti nei giorni feriali e 3 ore nel fine settimana. La Cina è il principale mercato dei videogiochi al mondo. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, in particolare alle ragazze e ragazzi della scuola Carlo Troia di Andria, che da 2 giorni ascoltano storie di guerra e giornalismo. Noi ci risentiamo domani con Paola Mirenda e una nuova raffica di notizie. I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A, Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A, Lola. La-la-la-la-lola.

chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Di mattina dove non si vede un passo, per ritrovare se stesso, parlare del più e del meno con un pescatore, per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. ...9:29 minuti di questo 7 novembre, buongiorno a voi anche per la pagina della rassegna stampa qui da Radio Zanardi, che naturalmente va alla fumata nera dovuta all'incontro tra l'ArcelorMittal, la multinazionale indiana che gestisce, anzi ha carpito, ha rubato l'Ilva di Taranto, e il governo italiano. Questo naturalmente è il leitmotiv dei titoli questa mattina sui giornali, per esempio il Corriere della Sera, Ilva, lo stop di Conte a Mittal, il Premier, richieste di 5.000 esuberi inaccettabili, due giorni per ripensarci, si è visto che appunto punto fuori il bluff ricatto dell'ArcelorMittal, dice o ci date licenziamenti in massa e impunità di inquinamento oppure andiamo via. Questo è un modo per alzare la posta, ma altri giornali aprono come il Messaggero, ex Ilva, il governo si spacca sul punto queste su immunità da concedere non tanto solo all'Ilva ma a tutte le aziende, perché per alcuni sarebbe un fatto di equità, per altri sarebbe un peggioramento perché dà impunità a tutta la classe padronale. Il Mattino, Ilva Mittal tira diritto e il governo si spacca. Andiamo ad altri giornali. Il dubbio sull'Ilva, lo scudo non basta, Mittal vuole andarsene. È un titolo da ombre rosse invece quello di Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva, la carica degli indiani, sono quelli non con le penne, però sono quelli coi fachiri. Comunque, sempre per rimanere nelle cartoline, fumata nera sull'ex Ilva, il secolo XIX, lo scontro si allarga ai 5.000 esuberi, mentre possiamo guardare anche il Riformista, che oggi giornale renziano con Sansonetti alla guida, riconvertito, smolla per un giorno almeno il morso sulla magistratura e dice dalla parte degli operai. Questo è il quadro. I giornali della destra invece si scatenano, no? Va da sé contro il governo giallorosso, che viene visto unico responsabile, quando sull'Ilva sono seguiti tanti bei governi, compreso il governo con il ministro dell'interno Salvini. E allora abbiamo il giornale che scrive una commessa: un fallito, affondano l'Ilva e l'Italia, dunque esecutivo del pallone, incontri vuoti, gli indiani se ne vanno, anche qui sembra ira del settore auto, no ad una manovra solo tasse. Alessandro Sallusti mette insieme la voce di Confindustria, che è arrabbiata perché non prende dei soldi più di tanti in questa manovra, con la vicenda dell'Ilva. Più naturalmente, sempre più pesante, Libero: Di Maio stermina i lavoratori, quindi sembra di leggere Auschwitz. Pure Zingaretti non lo tollera più. Oppure La Verità: governo fuso dall'acciaieria, o Il Tempo: l'Ilva è il Titanic di Conte. Queste sono le aperture dei vari giornali questa mattina. Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, un bel buongiorno di sole. L'Ilva, che è la notizia che spadroneggia su tutte le prime pagine dei giornali. Continuiamo con l'esame di questa notizia, portando il contributo del quotidiano nazionale Il Resto del Carlino. La Mittal detta le condizioni, ci sono 5.000 esuberi, braccio di ferro con il governo, non basta il ripristino dello scudo penale, i sindacati si dividono, scioperi separati per le varie categorie. E c'è una scheda di quello che rappresenta l'Ilva di Taranto per l'ArcelorMittal. Conte fa muro e non vuole il gioco sporco, e deve, la ditta deve comunque mantenere i patti. Si parla appunto di ditta indiana, ma l'amministratrice delegata Lucia Morselli, italianissima, e proviene da Terni, dove aveva gestito le famose acciaierie di Terni. C'è adesso un rischio domino, perché il rischio in effetti è anche su Fincantieri, che è il primo acquirente appunto dell'ArcelorMittal. Ancora su questa notizia prendiamo le pagine della Stampa, il quotidiano di Torino. A causa di questo incidente diplomatico con l'ArcelorMittal, l'esecutivo del governo sfiora la crisi, il premier Conte chiede tempo a Di Maio, e intanto Di Maio è subito pronto a cedere lo scudo di protezione per i reati penali, per inquinamento, per i dirigenti appunto dell'Ilva. C'è una bomba sociale, giocano sulla nostra pelle, dicono gli operai dei metalmeccanici di Taranto, mentre la Fiom e la Wilm rinviano la protesta a venerdì. E questo è un reportage di Valeria D'Autilio da Taranto, appunto sulle pagine della Stampa. Ancora la stessa notizia sulle pagine di Repubblica: fumata nera per l'Ilva, ma spunta l'ipotesi che l'azienda torni allo Stato. Ci sono due articoli che parlano di questo argomento. La maggioranza è divisa a Palazzo Chigi, ArcelorMittal chiede lo scudo penale, 5.000 esuberi e non ci fidiamo più appunto dell'Italia. C'è da dire che il mercato dell'acciaio è in forte decrescita, e nonostante questa sia una delle primarie ditte appunto che fanno affari su questo argomento, chi ci va di mezzo sono gli operai, quindi l'anello più debole della catena. Operai come scudi umani per operazioni di battaglie commerciali internazionali, ma Dario Di Vico dal Corriere ci fa capire che c'è appunto questo muro, altro che Berlino, un muro molto più invalicabile, quello del profitto e della finanza del liberismo internazionale, perché Dario Di Vico ci dice è un test per il paese come è stata la TAV. quindi sono delle linee rosse invalicabili secondo alcuni nostri commentatori, purtroppo sono tanti. Levate gli scudi, così apre il manifesto il suo giornale di oggi. Scudo totale sull'inquinamento della ex Ilva, diminuzione della produzione di acciaio a 5.000 esuberi. ArcelorMittal alza la posta e pone pesantissime condizioni per restare in Italia. Conte, proposta inaccettabile, allarme rosso. Oggi sindacati a Palazzo Chigi, Fiume Uime, domani sciopero di 24 ore. E quindi neanche i morti sono al sicuro a Taranto. Questo è Giacomo De Michele che ricollega anche la questione della guerra industriale a quella della guerra alla salute dei tarantini, in particolare il famoso quartiere Tamburi, dove tutto è ricoperto di questa polvere rossa che è cancerogena ed emanata dall'Ilva. Ma già citava Andrea, la prossima sarà l'Italia, quindi vediamo la catena, poi vedremo anche Fincantiere. La prossima sarà l'Italia, taglia il personale, priorità poco solida, il capitale scende a 900 milioni, poco più del doppio del prestito messo nel decreto fiscale. Quindi la Lufthansa, per intervenire, vuole anche questi licenziamenti di massa. All'Italia resta ancora un compratore, senza compratore, dice il giornale, per gli italiani è un salasso da 1,3 miliardi. Questo è il quadro che arriva dal giornale. Ma dicevi Fincantieri, che è una delle massime acquirenti dell'Ilva, quindi ha sicuramente una ripercussione oltre ai vari altri impianti delle acciaierie che sono a Piombino, Genova eccetera, ma Porto Marghera Fincantieri, sfruttamento e Mazzetta Fincantieri. Quindi ieri abbiamo commentato il libro Salari da fame di Marta Simone Fana, e qui oggi invece viene confermato sfruttamento bestiale nella storica azienda di Porto Marghera. Anche qui naturalmente Fincantieri, c'è il problema di inquinamento e quant'altro, l'accusa sono delle imprese bengalesi che lavorano in subappalto. Vedete come ci collega bene anche la vicenda internazionale, globalizzazione non dei diritti ma dello sfruttamento e stranieri. La connivenza, dice Giuseppe Petrobelli dal Fatto Quotidiano, a farne le spese gli operai la cui retribuzione scendeva a 4 euro all'ora, quindi stiamo avvicinando alla raccolta dei pomodori in Puglia. L'azienda, noi estranei, è un subappalto, cosa c'entriamo? Ma la prima pagina del Fatto Quotidiano, e Mittal provoca, si sapeva dal 2007 che era un bluff, il rapporto di commissari Ilva che bocciò il piano degli indiani avallato da Calenda. Ora Calenda adesso fa la sorta di Che Guevara fuori dai ruoli, ma in realtà fu uno dei primi responsabili di questa iniziativa e di questo tracollo. Era tutto già scritto, il piano fu stroncato dai tecnici del 2007, e poi si ricorda anche le inchieste, perché ogni tanto bisogna ricordare anche le persone che sono rimaste in mezzo, schiacciati in questa vicenda. Raffica di morti e veleni. Ecco tutte le indagini su Ilva, salute e lavoro, dal maxi processo a Riva, Verdolacce and Company, a quelli sugli operai morti, alle missioni killer, i grossi procedimenti sono 10, ma la lista è ben più lunga, dico io, ahimè, nell'articolo di Francesco Casula, proprio dal Fatto Quotidiano. E poi dalla pagina iniziale, appunto, sempre su questo tema, Travaglio scrive per Alessandro. Alessandro Morricella era nato a Martina Franca, aveva 35 anni e una moglie e due bambini di 2 e 6 anni. Era un bravo operaio dell'Ilva di Taranto, sequestrata nel 2012 dai giudici di Taranto e subito riaperta per decreto da Monti e dai suoi successori. L'8 giugno 2015 si è avvicinato come sempre al foro di colata dell'Alto Forno 2 per controllarne la temperatura e probabilmente per un accumulo anomalo di gas, certamente per la scarsa sicurezza del vetusto impianto, è stato investito da una fiammata mista ghisa incandescente che l'ha trasformato in una torcia umana. Ricoverato in ospedale, morto dopo 4 giorni di retrocegonia il 12 giugno, proprio nel giorno dedicato alle vittime del lavoro. Una data tutt'altro che casuale, il 12 giugno 2003, sempre all'Ilva, Paolo e Franco Pasquale De Torre erano stati uccisi dal crollo di una gru e subito dimenticati da tutti, fuorché dal rapper pugliese Caparezza che dedicò loro il brano Vieni a ballare in Puglia. E tu dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia, tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Ma questa terra ti manda al manico. Mio, mare adriatico e io. Mio, vuoi respirare lo iodio. Ma qui nel golfo c'è puzza di zolfo, che sta arrivando il demonio. Abbronzatura da paura con la diossina dell'Ilva. Qua ti vengono qua più rossi di Milva. E dopo somiglia alla pimpa nella zona spaccio non la moria più buona. C'è chi ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato ed è andato in coma. Fuma persino il Gargano con tutte quelle foreste accese. Turista, tu balli e tu canti, io conto i defunti di questo paese. Dove quei furbi che fanno le imprese non badano a spese. Pensano che il protocollo di Kyoto sia un film erotico giapponese. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, dove la notte è buia, buia, buia. Tanto che chiudi le palpebre non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure tu. Che devi ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stanchi e venga giù. Fa festa ma la gente depressa e scarica. Ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. Tra un palo che cade ed un tubo che scoppia, in quella boccia s'accoppa chi sgobba. E chi non sgobba si compra la roba e si sfonda finché non ingombra la tomba. Viene a ballare compare nei campi di pomodori, dove la mafia schiavizza i lavoratori e se ti ribelli vai fuori. Rumeni ammassati nei bugigattoli come pelati barattoli, costretti a subire i ricatti di uomini grandi ma come coriandoli. Turista tu resta coi sandali, non fare scandali se siamo ingrati. E ci siamo dimenticati di essere figli di emigrati, mortificati, non ti rovineremo la gita. Su, passa dalla Puglia, passa miglior vita. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, dove la notte è buia, buia, buia. Tanto che chiudi le palpebre non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure tu. Che devi ballare in Puglia, Puglia, Puglia, dove ti aspetta il boia, boia, boia. Agli angoli delle strade spade più di rea tu. Si apre la voragine e vai dritto a pezzi tu. Oh Puglia, Puglia mia, tu Puglia mia, ti porto sempre nel cuore quando vado via. E subito penso che potrei morire senza te. E subito penso che potrei morire anche con te. E questa è la notte d'Atalanta secondo Caparezza. E veniamo invece sempre sui temi ambientali a questa micro tassa sulla plastica che ha scatenato il fine mondo, perché diciamo ha offeso i profitti delle aziende, molti delle quali sappiamo sono in Emilia Romagna, quindi subito si è riverberato nella questione verso le prossime elezioni Milano Romagnole, con Bonaccini si è molto preoccupato dei produttori di plastica. Plastica, leggo da Federico Del Prete oggi dal Corriere di Bologna, il piano di incentivi per il riciclo mette d'accordo PD e 5 Stelle. Lo annuncia il presidente Bonaccini mettendo sul piatto 2 milioni di euro. E quindi come si risolve la cosa? Con soldi alle imprese, ovviamente. I 5 Stelle sono pronti a votarlo. Merola il carroccio, se qui vincono loro siamo condannati al declino, una cosa che non si può accettare. Certo che forse se si tenesse più il testa alta sul terreno ambientale sarebbero anche più possibilità di vincere le elezioni. Ma per rimanere invece alla questione di merito, più che prima ancora che quella politica che più avanti affrontiamo, l'extraterrestre, l'inserto del giovedì del Manifesto, ci parla del pastificio, il plastificio Italia. L'Italia è il maggiore produttore di materie plastiche di tutta l'area mediterranea, cioè una ben triste maglia nera. Ogni anno ne sforna 8 milioni di tonnellate, però se metti una mini tassa sulla plastica, fine il mondo. Ma è anche il paese più colpito dall'impatto dei rifiuti, usa e getta, che rimangono nell'ambiente per uno e anche per due secoli. Ogni italiano in un anno ne disperde 7,8 kg nei fiumi, nei mari o in discariche abusive. Gli effetti dell'inquinamento e sulla salute sono dunque decisamente più devastanti di una tassa di pochi centesimi che sta minando la tenuta del governo, tenuto in scacco dall'industria degli imballaggi. Triste morale che arriva da questo inserto del Manifesto, il fatto che la settimana continua con l'insostenibilità del Made in Italy che è tutta di plastica, mentre vivere senza plastica è possibile. Lui dice no, non è possibile, senza plastica non posso vivere. Invece no. Intervista al responsabile oceano di Greenpeace in Inghilterra, Regno Unito, tal Will McCallum, che a Marta Gatti del Manifesto spiega che ha scritto un libro che denuncia una delle più grandi minacce per il pianeta, una guida per attivisti antiplastica. L'esistenza dei prodotti usa e getta è ridicola, li usiamo una volta senza pensare che rimangono in ambiente 100-200 anni. Basti pensare al famoso sacchetto delle che andiamo a fare la spesa, basterebbe una retina per portarsi appresso e tutto sarebbe risolto in qualche modo, ma invece preferiamo lo spreco per lo spreco. Sì, in tema di plastica volevamo fare i primi della classe con l'azienda di Castel San Pietro, la BioOn, e invece è stata massacrata dal mercato borsistico e Piazza Affari, e insomma le plastiche biologiche sono un po' al palo in questo momento, ma sulle pagine di Bologna, locali di Repubblica, c'è appunto la sfida di Bonaccini su tasse e plastic free. Il presidente presenta l'ultimo bilancio, accordo sull'ambiente con imprese e sindacati, possibile una convergenza con i 5 Stelle e al ceto medio renderemo 80 milioni di euro. Il governatore dice: per il quinto anno le imposte non aumentano, l'Italia deve guardare a noi, ma in senso positivo, non come dice la Bergonzoni, che è una prova d'appello. Le elezioni di gennaio appunto in Emilia Romagna, e c'è le pagine che riguardano l'ecologia sul Sole 24 Ore, un riepilogo sulle tasse, la manovra fiscale e il mini effetto sul deficit, e tutte queste piccole correzioni che stanno effettuando appunto sulla manovra riguardano anche la plastic tax, l'ipotesi di modulazione tra 60 e 40 centesimi la norma in manovra. Attualmente il decreto legge di bilancio prevede il pagamento di un'imposta pari a 1 euro al chilo sugli imballaggi e i contenitori monouso di plastica. Le modifiche allo studio, si starebbe lavorando appunto sull'entità del prelievo con differenti scalettature fra i 60 e i 40. Il gettito previsto, dice appunto il Sole 24 Ore, 1,1 miliardi previsto per il 2020. E c'è una fotonotizia sulle pagine locali di Repubblica che riguarda una montagna di plastica e un operatore ecologico dell'era che è preoccupato e se la sta guardando e rimirando. E c'è ancora un'altra questione che riguarda la plastica a Bologna. Sappiamo che la metà della plastica, ce lo dice Valerio Varesi a pagina 3 della locale cronaca di Repubblica, metà della plastica che raccogliamo in modo differenziato finisce nel forno inceneritore e si trasforma in energia. Stiamo parlando del caso di Era, di 51.000 tonnellate l'anno di materiale su 102.000 separate dai cittadini. La percentuale è più o meno costante a livello nazionale ed è un dato che può sembrare paradossale. I cittadini differenziano, ma metà di ciò che raccolgono in questo modo fa la stessa fine del pattume indifferenziato e serve solo a produrre energia, spiega Filippo Bocchi, direttore di Valore Condiviso e Sostenibilità dell'azienda di Viale Berti Piscià delle Era, e che è che non c'è un solo tipo di plastica, ma tanti polimeri che la compongono. Il riciclaggio ha invece bisogno di omogeneità, e quindi se oggi stesso un oggetto ne contiene più di un polimero diventa difficilmente lavorabile per il recupero. Questa era la questione che riguardava la plastica. E allora sul rifiuti, plastica compresa, Francesco Moroni del Carlino Bologna parla dell'ERA. 3.000 cassonetti smart entro 2 anni. Zanfini, che è dirigente dell'ERA, capo area della direzione dei servizi ambientali di ERA: entro fine d'anno completeremo il centro, nel 2020 nel resto della città, i guasti normali in rodaggio miglioreremo. Sappiamo che Bologna è abbastanza in ritardo rispetto agli altri comuni, anche della stessa cinta provinciale, su questo terreno. Ma rivendica invece Raffaele Zannini: il bidone made in Bologna è nato qua ascoltando segnalazioni e bisogni dei residenti. Diciamo che comunque nel Trentino sono un po' più avanti, se per essere sinceri. Detto questo, allarghiamo lo sguardo, perché parleremo di immigrazione anche più avanti, ma facciamo un ponte tra le due cose, ed è rifugiati climatici in aumento, in fuga ma senza protezione. Quindi gli effetti devastanti a livello mondiale sono sotto gli occhi di tutti, e devo dire che come i rifiuti servono a buttare l'inceneritore per fare diossina e fare soldi con l'energia, anche i rifugiati climatici servono perché si fa campagna elettorale sopra e si fa sfruttamento nei posti in cui arrivano. Tra i 200 e i 300 milioni in questo secolo, secondo il rapporto Green Economy del 2019, questi rifugiati climatici. Ma 200-300 milioni, non esiste ancora uno status che conosca protezione a questi migranti ambientali. D'altra parte, per la questione ambientale, energia, è un tema importante. Allora, energia pulita, poi vedremo quanto, è quello di Tokamak, il reattore che domestica il sole. Quando stiamo queste cose ci viene un certo brivido, perché, come dire, come per sé, non so se possiamo capaci di dominare il fuoco. Comunque, parte il conto alla rovescia per la fusione nucleare. Francia, oggi la presentazione, 1,2 miliardi l'investimento italiano. Dunque, è come mettere il sole in una scatola, un gioco da ragazzi. Il momento è importante perché a questo punto possiamo cominciare ad assemblare la macchina. E questo Tokamak è un acronimo russo di epoca sovietica che indica una specie di gigantesca ciambella a cui interno gli scienziati sperano di poter riprodurre e domesticare sulla Terra lo stesso processo che ha luogo in ogni istante nel Sole e nelle stelle. Quindi si fa il confronto con le vecchie centrali nucleari. Le centrali nucleari dagli anni 50 poi usano la fissione, cioè la separazione degli atomi. L'ITER, l'International Thermonuclear Experiment Reactor, si basa invece sulla fusione degli atomi. Il gas di idrogeno viene scaldato fino a 100 milioni di gradi, passa allo stato di plasma, definibile come il quarto stato della materia accanto al solido liquido e gassoso, viene controllato dai enormi magneti fino a che gli atomi si fondono liberando energia. A differenza della fissione nucleare, la fusione è in grado di produrre almeno 10 volte più dell'energia immessa nel sistema per farlo funzionare. Fin qua di sicurezza non parliamo, si parla di produzione e produttività. Dice ancora questo Orlandi, che ci spiega le meraviglie di Tokamak. E se le scorie della, ecco, qui c'è un vantaggio: se le scorie della fissione restano radioattive per 2-3 mila anni, quelle della fusione dimezzano i loro effetti in 12. Questo è un vantaggio, perché le scorie effettivamente non sono risolvibili, ma non c'entra nulla sul fatto degli incidenti nucleari, esatto, possibili, o sull'inquinamento. Comunque, forse è meglio, più che produrre in questo modo, la risoluzione circolare. Green economy, tante chiacchiere, pochi investimenti, dice Daniela Passeri, sempre dall'inchiesta del inserto extraterrestre del Manifesto. La relazione sull'economia verde 2019 fotografa in un paese che perde slancio nell'attenzione all'ambiente e che ignora l'emergenza climatica. Eppure gli impatti economici del riscaldamento globale per il futuro sono allarmanti per tutti i settori, come la pesca, turismo, agricoltura, l'energia e il territorio. Sì, ancora sull'ambiente, pagine del Sole 24 Ore, 14, al Salone delle Due Ruote di Milano è stato assegnato l'Urban Award 2019 per la mobilità sostenibile e l'ha vinto la città di Pescara. La città di Pescara, con i suoi progetti PESOS, Pescara Sostenibile, che propone iniziative o incentivi per coloro che si recano al lavoro in bicicletta o in bike trial. Questa è la notizia che ci porta il Sole 24 Ore, ma ancora abbiamo altre notizie, chiudiamo con questa sull'ambiente. C'è una svolta sostenibile della chimica: in 30 anni le emissioni delle aziende chimiche sono state ridotte del 95%, ed è stato presentato ieri alla fiera Ecomondo di Rimini il 25esimo rapporto Sostenible Care. I migliori progetti ambientali sono stati premiati SIAD, Pink Frogs e Liquigas. In effetti l'economia circolare deve partire appunto dalla chimica, e le nuove tecnologie prevedono appunto che grazie alla chimica il riciclaggio delle sostanze inquinanti e il loro ripristino nella forma primordiale avverrà attraverso la chimica, e queste sono scoperte positive. Sempre sul terreno non ambientale, ma delle grandi opere, quindi collegate chiaramente all'ambiente e anche alla mobilità, andiamo al caso nel 2007 segnalato dal Fatto Quotidiano. A4, il pilone killer ancora 58 centimetri dal guardrail. Parliamo di autostrade e di manutenzione, e siamo sulla Brescia-Venezia. Riprende a gennaio la Verona il processo per la strage degli studenti ungheresi, 17 morti, sotto accusa anche i tecnici del concessionario e dell'ANAS. Le perizie dicono che la barriera non riuscì a contenere il bus perché non c'era spazio, ma dopo 2 anni nulla è cambiato. D'altra parte, nulla cambia nella prevenzione. Dal 2013 nessuno controlla i cassoni sotto i viadotti liguri. Io direi che la Liguria, come viadotti, in qualche modo ha destato l'attenzione generale, però non è sufficiente. 0 ispezioni sulle intercapedine che possono mettere a rischio la struttura dei ponti, anche nel resto d'Italia. Quindi consoliamoci, ma il comune acqua, nessun gaudio. Struttura a rischio, spesso ci sono notevoli accumuli per le piogge, il recente maltempo stavolta non c'entra. Il tecnico, le norme di sicurezza sono cambiate, gli ispettori dovrebbero dovuto fare dei corsi, ma fanno gli ispettori senza informare delle novità ambientali e di sicurezza. Diceva anche parlando della immigrazione. E allora vediamo con il giornale che dice: immigrati, resa del governo, non salta il piano Salvini. Il ministro interno Luciano Lamorghese ha scoperto l'acqua calda sui miglioramenti del memorandum italo-libico e nelle proposte del libro dei sogni avanzate ieri dalla Camera forse non si rende conto che Tripoli è sotto assedio e che attacchi aerei non solo l'ONU, dice il giornale, ma continuando poi in pagina 11 questo intervento, ma dovrebbero prenderli in mano i centri governativi di detenzione dei migranti, abbattuto in gran parte ritirata. Dunque la speranza del Viminale, nuovo patto con la Libia per fermare gli sbarchi. Allora l'allerta, tanto perché siccome quando è giustificare una cosa ingiustificabile, gli accordi con i lager libici, quando il capo di questi lager è il trafficante Bija, che trattando col Viminale a suo tempo, al tempo di Minniti, fa un sacco di soldi sulla pelle e non senso metaforico dei migranti, allora si incita alla paura. C'è il rischio di infiltrazione di militanti jihadisti tra i migranti che giungono sulle nostre coste nei paesi dell'Unione Europea, quindi per quello fai pagare il resto, il conto a tutti gli altri. Non so questo sia il ragionamento. Il manifesto infatti da un'altra lettura, che non quella che dà il giornale, Lamorghese difende l'accordo con la Libia, migranti, la camera informativa della ministra dell'interno sul memorandum. Nel frattempo anche qui non siamo i soli, perché ma questo non ci giustifica per nulla, si fa gara a chi fa peggio, per cui leggo per esempio che la Francia è stretta sull'immigrazione non utile. Quindi abbiamo le persone utili e le persone non utili. Mi ricordo Zygmunt Bauman, il sociologo, diceva che c'è l'immondizia della società capitalistica, tutti quelli che vengono buttati via. Nuova legge, lotta alla clandestinità, quote per professione. E allora scatta il meccanismo di repressione automaticamente. E allora a Parigi troviamo la notizia questa mattina: evacuazione di due campi migranti, non erano utili. È in corso alla periferia nord-est di Parigi una vasta operazione di sgombro di alcuni accampamenti di migranti. Lo scrive l'agenzia AFP. Nei due campi si trovano tra i 600 e i 1200 migranti. Naturalmente dove vadano non si sa, andranno nel prossimo ponte col prossimo sgombero. Comunque, circa 600 poliziotti stanno lavorando alla rimozione delle tende di fortuna e allo spostamento di migranti nel centro di accoglienza. Quindi abbiamo un rapporto di, nel caso più generoso, di un poliziotto per due migranti. Sì, ancora nel locale riguarda questo tema dei migranti, l'Emilia, e c'è un paese in rivolta per 35 migranti nella provincia di Ferrara, a Ravalle, frazione, è bastato l'annuncio dell'arrivo dei profughi ed è partita la protesta, come nel 2016 è successo a Gorino, che è distante pochi chilometri. C'è l'inviata Brunella Giovara, appunto dalle pagine di Repubblica, che è a Ferrara e ci fa sapere appunto questa cosa. Su questo argine destro del Po: noi faremo le barricate contro i migranti, abbiamo votato la Lega ma la Lega non ci aiuta. Dopo mesi di campagne sui porti chiusi ci mandano ora gli stranieri, si chiedono appunto questi paesani di Ravalle, frazione di Ferrara. Con quattro trattori chiudiamo la strada e l'argine, siamo sulla provinciale 19, la statale adriatica, nel pieno centro dell'Emilia Romagna leghista. Ferrara a 10 chilometri, tre frazioni della città leghista sono in subbuglio e anche di più, e anche contro il loro stesso partito, perché hanno saputo che la prefettura manderà a Ravalle 360 abitanti e ben 35 stranieri, tutti richiedenti asilo. E allora veniamo ai partiti, cominciamo dalla maggioranza, che sembra svivacchiare e in qualche modo sopravvivere a se stesse, forse non ce la fa. E cominciamo da Zingaretti. Il PD agli alleati: basta giochini e guerra di nervi con Renzi. Zingaretti riunisce i ministri Dem: io sarò leale ma non governeremo tra nemici, anche se a noi converrebbe, non voglio il voto, ma se non si sta insieme non si va avanti. Questo è quanto. Ma Di Maio, che era un dei destinatari del messaggio di Zingaretti, secondo il Corriere, secondo Alessandro Trocino, Di Maio ignora l'allarme dei Dem, nei 5 Stelle parte la sfida al leader. Nessuna replica a Zingaretti, temono per l'Emilia. Morra convoca i parlamentari, prima dei 5 Stelle che sono inviluppati nei loro guai interni, e questo non vedono più l'Italia, questo è il caso di dire. Ma questa dissidi nella maggioranza fa grandi sconti all'opposizione. E veniamo allora a Roma ladrona, la Lega non paga. Perché non paga dazio nei sondaggi, almeno soldi per concorsi finti. Indagato il leghista Antonini. In Umbria, l'ex presidente della Popolare di Spoleto e sostenitore del neogovernatore Tesei, accusato di truffa con 6 persone. Quindi aria nuova in Umbria, dopo lo scandalo del PD, adesso lo scandalo della Lega. La banda per IBM Dominus dell'associazione per delinquere, un sedicente agente dei servizi. Ancora una volta c'è questo intreccio tra malavita, corruzione e agenti segreti. Trattativa, invece veniamo a Forza Italia. Berlusconi non parlerà e non difenderà Dell'Utri. Convocato come testimone l'11 novembre, leggo ancora dal Fatto Quotidiano, si avvarrà della facoltà di non rispondere. O le sue parole potranno essere usate contro di lui. Quindi Berlusconi molla l'amico Dell'Utri perché salva la spellaccia. La deposizione non ci sarà smentita delle minacce di Riina e Busca per tramite di Vittorio Mangano. Sì, ancora notizie della politica, riguardo alla manovra c'è la caccia per le coperture dopo le modifiche a plastic tax e auto aziendali. La manovra del governo, venerdì 15 settembre scadono i termini per presentare gli emendamenti e ancora non ci sono tutte le coperture necessarie per l'appunto per definire la questione in tema di politica europea. E ancora riguardo sempre la politica, Zingaretti dà un ultimatum e anche Franceschini a Di Maio e a Renzi, così la corda si spezza, dicono non possiamo fare i donatori di sangue per questi qui, dice Zingaretti, e lo riporta Carlo Bertini a pagina 6 della Stampa. Il PD ogni volta ci mette le pezze, come si dice, esce pure cornuto e mazziato. Sono queste appunto le battute che scorrono tra Palazzo Chigi e il Nazareno. Il caos sull'Ilva, in cui piomba in serata il governo, dice molto di come sia precipitata la situazione in un pomeriggio di battaglie campali nel tentativo di non far schiantare la maggioranza su uno scudo penale ai manager. E c'è quello che segnalo è ancora un articolo che è di Federico Capurso, che parla di prove nel Movimento a 5 Stelle di sostituire Di Maio come leader appunto di questo movimento. Il senatore convoca i parlamentari e è appunto una riunione voluta da Morra. Grassi si prepara l'addio, amareggiato, ma mi hanno usato. Drin drin, pronto, chi parla? Chi è? Buona domenica, la ringraziamo per il sostegno che ha dato a Salvini. Stupore dall'altra parte del telefono, perché chi all'ascolto non ha votato il leader della Lega. Ma come? Lei non crede che sia l'unico che si occuperà dell'invasione dei migranti? Non pensi che sia giusto pensare prima agli italiani? Insiste l'altro. E se chi ha ricevuto la telefonata simile non demorde, rispondendo magari che questo è solo propaganda, può sentirsi rispondere anche così: ma lei cos'è, un migrante? Questo è il servizio che arriva dal Corriere Bologna. Pronto, stai con Salvini? Scoppia il caso telefonate. La denuncia arriva dal PD. Elettori chiamati da numeri privati, scriveteci per segnalarci i casi. Allora si va verso le elezioni regionali. Bonaccini, e questa è l'apertura del Corriere di Bologna, 80 milioni al ceto medio. Il governatore vara l'ultimo bilancio a 12,2 miliardi con un obiettivo politico preciso. La sua rivale la Borgonzoni, ma il papà della Borgonzoni voterà Bonaccini perché si è comportato bene. Questo è come si dicono i giornali. In realtà noi invece aggiungiamo qualche riflessione, perché il prossimo 9 novembre ad Umbo Space in via Casarini a Bologna si terrà un confronto tra politica e società civile verso le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Diseguaglianze, transizione ecologica, innovazione tecnologica, temi del dibattito, temi centrali del dibattito. A presentarci l'iniziativa l'ex eurodeputata Elis Lain, sentiamo le sue parole. Legione Futura è un appuntamento che ci siamo dati per questo sabato 9 novembre dalle 15 alle 19 al Dumbo Space di via Casarini a Bologna. È un grande momento di confronto sul futuro dell'Emilia Romagna, cioè sentiamo la necessità di ridarci una visione del futuro di questa regione basato sui temi su cui si sta mobilitando tanta parte di società, che sono le sfide più cruciali per il nostro futuro: la transizione ecologica, la lotta alle diseguaglianze e come governare i processi di innovazione tecnologica. Su questo abbiamo fatto un aperto appello plurale per chiedere a tutti e a tutti di venire a costruire insieme delle proposte concrete su questi temi, delle proposte che possano migliorare le vite delle persone anche in una regione come la nostra, anzi proprio in una regione come la nostra, che è una regione che ha un tessuto sociale straordinariamente vivo e dinamico, una storia di innovazione importante, ma anche una consolidata tradizione di dialogo tra tutte le parti sociali. Ecco, proprio da qui può e deve, secondo noi, partire un ripensamento radicale del modello di sviluppo in senso sostenibile, che parta chiaramente da scelte coraggiose per rendere le politiche regionali e locali coerenti con i 17 nuovi obiettivi dello sviluppo sostenibile al 2030. Quindi sarà una riflessione ricca e articolata, ci saranno molte realtà sociali, associative, civiche e politiche, chiedendoci insomma se è il caso di lanciare queste proposte in un dibattito come quello che ci apprestiamo ad avere sull'appuntamento importante delle elezioni regionali di gennaio, ecco, che ci sembra ancora povero, diciamo, di contenuti e di visione. Vogliamo quindi provare insieme, ed è un appello che si rivolge a tutte e tutti, cittadini e cittadini, ma anche alle forze ecologiste, progressiste, civiche della sinistra, per immaginare insieme un futuro diverso. Non è più tanto in voga, come dire, partire, per usare un'espressione un po' abusata, dal basso, no? Quindi da cosa nasce questa necessità? Da una necessità di ascolto, perché ci è parso che anche in una regione come la nostra, dove è vero che tutto sommato la rete di protezione ha tenuto anche in questi anni di crisi, in cui comunque abbiamo visto un aumento delle diseguaglianze, e abbiamo visto anche nei nostri territori far breccia un disagio, un senso di percezione di allentamento della coesione sociale, un senso di peggioramento delle proprie condizioni di lavoro e materiali. Ecco, è un disagio che non va sottovalutato, va ascoltato per provare a trovare nuove risposte a nuovi bisogni. E fin qua la Schlein, ex eurodeputata della sinistra, che in qualche modo parla delle prossime regionali. Quello che bisogna fare è dare ascolto e magari cambiare un po' rotta. Detto questo, veniamo alla cronaca che ci rimanda: la cultura disturba la malavita, incendiata la pecora elettrica. Un altro attacco contro la libreria romana dei 100 celle appena riaperto dopo il rogo estivo. Manifestazione solidarietà del quartiere, arriva anche Franceschini. È un luogo di sinistra, quindi si batte la pista degli spacciatori, ma sicuramente, se non altro, in combutta col mondo fascista. Spalle alle strade, gli sguardi attoniti sono rivolti verso una saracinesca annerita dal fumo. Sono sopra, resiste l'insegna della libreria La Pecora Elettrica del 100 celle alla periferia orientale di Roma. Viene bruciata di nuovo proprio la vigilia della sua seconda rinascita. Chi è che bruciava i libri? Mi sembra di ricordare. Comunque, il primo incendio si era verificato a poche ore dal 25 aprile scorso, quindi direi che la matrice fascista non è che i spacciatori sono molto legati al 25 aprile, alla contestazione della resistenza. Comunque, il che aveva fatto pensare a un tentato di natura politica contro una libreria indipendente che non ha mai fatto il mistero delle sue simpatie antifasciste. Una ventina di giorni fa è stata data alle fiamme anche una pizzeria che si trovava a 20 metri dalla libreria, dall'altra parte del marciapiede, circostanza che fa sospettare che qualcuno abbia bisogno che questo pezzo di strada, subito dietro il parco delle porte Prenestino, rimanga buio dopo le 20, magari per favorire anche lo spaccio di droga. Sì, Pecora Elettrica, che secondo me è una citazione da un romanzo di Philip K. Dick, se non ricordo bene. Anche le formiche sognano le elettriche. È quello. Anche Blade Runner, insomma. Sì, l'autore di Blade Runner. Anche Repubblica riporta a pagina 18 questo attentato nel quartiere di Centocelle, Roma a fuoco, la libreria antifascista, il quartiere in piazza, e ieri sera c'è stata una manifestazione popolare per le strade del quartiere Centocelle con un cartello: combatti la paura e difendi il quartiere. E un'altra cosa che volevo segnalare era l'articolo di fondo che ha scritto Concita De Gregorio, e come al solito gli articoli su Repubblica iniziano in prima pagina e poi vanno a finire nei commenti quasi alla fine del giornale, e l'incipit è: e adesso mi piacerebbe che tutti quelli che si proclamano gente del popolo, non i radical chic che vivono nelle terrazze e nelle ZTL nutrendosi di caviale, ma tutti gli altri, proprio tutti gli altri, mi piacerebbe si portassero coerentemente al numero 158 di Via delle Palme a Roma, al quartiere Centocelle, per andare a protestare appunto su questo argomento. Cerchiamo comunque, a metà dell'articolo dice, cerchiamo comunque di non fare ideologia a sproposito, semplicemente è un gesto criminale con vasta eco simbolica. Bruciare i libri, si capisce, non è come bruciare immondizia. Tra l'altro bruciare immondizia rende, e l'abbiamo visto nelle notizie precedenti anche in questo rassegna stampa, bruciare i libri non porta guadagni, solo sgomento, uno sfregio. A chi deve capire capirà. Ci sono voluti mesi di raccolta fondi, il crowdfunding della gente del popolo per consentire alla Pecora Elettrica di riaprire l'inaugurazione, che era appunto questa sera, la sera della manifestazione di protesta di quartiere. Che combinazione, coincidenza che alla vigilia, alle 3 di notte, l'abbiano fatta bruciare di nuovo. Chi è stato? Difficile saperlo. La cattiveria del Fatto Quotidiano, oggi si parla di razzismo. Niente stadio fino al 2030 al capo ultras del Verona, vabbè. Tanto sarà impegnata a Montecitorio, questa è la tristezza dei tempi, ma alla destra non c'è solo Roma ladrona, ma c'è anche Parigi ladrona, e allora andiamo in Francia. Processo Jean, Giovanna d'Arco tradita dal Front National. Il mico partito governato dalla Le Pen nel 2010 potrebbe essere stato strumento di una frode ai danni della Stato. Il piano, l'accusa dell'ultradestra, gonfiava le spese per ottenere rimborsi pubblici cospicui. Questo è tutto il mondo e paese anche a destra. E invece il Corriere apre con un'altra notizia. Insulti, minacce, decisa la scorta per Liliana Segre. Perché è responsabile, sono uscita viva dai campi di sterminio, quindi non può passarla liscia. Andrea Galli e Gianni Santucci per la prima pagina del Corriere. I carabinieri di Milano garantiranno la scorta alla senatrice a vita Liliana Segre, 89 anni. Pensate che ignomiglia, 89 anni, bisogna di una scorta perché appunto c'è Gentaglia che la minaccia. Comunque, deportata nel gennaio del 44 sul binario 21 della stazione centrale del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, è sopravvissuta all'olocausto. La misura di protezione viene disposta ieri dal Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico presieduto dal prefetto Saccone. Tecnicamente si tratta di una tutela con la presenza di militari in ogni spostamento e uscita pubblica della senatrice. La decisione dopo l'escalation di minacce, lo distriscione esposto alla Forza Nuova, mentre Segre era con Don Gino Rigoldi e gli studenti. Ero a Como a una riunione della buona Caritas. Sono entrati molti skin con i bomber, gli anfibi e le Adidas. Traditore della patria! Che sostieni gli emigranti. Se chi tiene i sentimenti, occhio, non amare l'invasore. Oh, oh, oh. Disgustato da quell'odio, mi rilasso un po' allo stadio. Ma mi becco 10 cori contro i negri calciatori, mentre un mezzo nazi punk prende in giro l'Anna Frank. Ma mi spiega un magistrato che si può, non è un reato. E vita de chi è ciata de là, eia eia tra la la, e paga de su, paga de su. Non ci pensare, canta tu, e vita de chi è ciata de là, eia eia tra la la, paga de su, paga de su. Non ci pensare, canta anche tu. Sono andato al cimitero a trovare nonno Piero. Quando sento dolce, dolce disturbare la mia pace, no niente, erano solo Forza Nuova, Alba d'Oro e Casa Pound, che invitavano mio nonno, partigiano i nuovi round. C'è un progetto autoritario, chiedo in giro, ma va là. C'è soltanto l'espressione della nostra libertà. E se un certo giovinotto ti fa Hitler a Marzabotto, non si può gridare al lupo evocando un tempo cupo. E tuita de chi è ciata de là, eia eia talla la, taga de su, blaga de su. Non ci pensare, canta tu, e tuita de chi è ciata de là, eia eia talla la, taga de su, blaga de su. Non ci pensare, canta anche tu. com'è finita la storia? Ma niente, normale, regolare. Due bulletti mi hanno messo sopra un treno, tutto ok. Io, quattro islamici, tre ebrei e un mio amico che si è iscritto all'Arcigay. Eravamo tutti allegri, una bella compagnia, una gita verso un posto che sembrava l'Ungheria. Il fascismo può tornare, chiedo un tipo, e chi lo sa? Fatti un selfie sul vagone e il magone sparirà. Eia eia, eia eia, eia eia, tra la la. Una risata ci seppellirà, eia eia tra la la di Aloisio. Quindi veniamo ai mutamenti, perché sabato si festeggia la caduta del muro, la grande libertà dell'Occidente, la democrazia che invadeva tutto il mondo, e infatti il contrario. Al di là del muro, guai ai vincitori, racconta Barbara Spinelli, Berlino 30 anni dopo. Sabato ne parleremo più diffusamente di questa vicenda. La riunificazione, l'accanimento selettivo contro l'Est, continua a garantire coscienza pulita a tutto l'Ovest dell'Unione, perché noi siamo democratici, si sa. L'integrazione non si è nutrita di menzogne, ogni storia riscritta, e così è cresciuto il risentimento raccolto oggi dalle destre estreme. Nell'ex DDR in particolare non si vuole imbellire il welfare o la storiografia, alcune sue acquisizioni potevano essere però preservate, questo è quindi la distruzione. Ma tutto il mondo è in crisi, cominciamo appunto da zone lontane. Haiti da 8 settimane dietro le barricate. Di Haiti non ne parla nessuno perché è un paese che o muore di peste o muore di terremoto, ma poco ci interessa. Invece c'è la politica come Moise vattene. Dilaga la protesta insieme alla povertà e alla violenza, ma il presidente non si dimette. Nelle strade già 42 morti, secondo l'ONU, le sinistre sul piede di guerra. E gli USA che fanno? Perché gli USA altrimenti lì è sempre il grande dominator, il grande domus, e perciò ci si domanda qual è l'intenzione. Non si dimette neanche il premier Abdul Mahdi in Iraq, non si dimette, già 260 le vittime, il premier senza alternative è salto nel buio. E beh, direi che il buio è già oltre la siepe. La mobilitazione popolare non gli crede e prosegue, spari a Baghdad e anche nel sud. Il governo revoca il coprifuoco notturno imposto lo scorso 28 di ottobre. Passo invece ad altri spunti che riguardano per esempio la pagina della Spagna, e qui andiamo col Manifesto, a pagina 7, con questa svolta centrista destra di del PSOE. Spagna, il dibattito si sposta a destra, conferma Luca Tancredi del Barone dal Manifesto. Sanchez abbandona i temi di sinistra, Partito Popolare è in rimonta, e infatti come quando insegui la destra vince la destra anche in Spagna come in Italia. Il microfono aperto a Vox, Dogan, la xenofobia, e qui torniamo al tema del fascismo. Domenica comunque al voto, Santiago Abascal in TV se la prende anche contro i minori migranti non accompagnati, questo è il socialista. Ma per corredare questa pagina andiamo sul Giornale. Il governo chiude i social per decreto, allarme democrazia sul voto spagnolo. Sì, ancora sul voto spagnolo riprendo le pagine di Repubblica del Mondo, in particolare da Barcellona Alessandro Oppes, che fa un piccolo resoconto di tutti i vari candidati. C'è Pedro Sánchez, il leader del PSOE, età 47 anni, capo del governo dal 1 giugno 2018. Poi c'è Pablo Casado, presidente del PP da luglio 2018, tenta di risollevare il partito dopo il tonfo di aprile. Poi c'è Santiago Abascal, leader di Vox, dopo aver portato l'ultradestra alle Cortes, punta a raddoppiare i seggi da 24 a 50. Poi c'è Pablo Iglesias, coordinatore di Unidas Podemos, 41 anni, rischia di pagare alle urne il no all'intesa col PSOE che ha provocato il voto anticipato. E poi c'è Albert Rivera, leader dei Ciudadanos, dopo la svolta a destra di aprile ora teme un crollo e potrebbe perdere 40 seggi su 57. Ancora sempre dalle pagine di Repubblica andiamo in America, e c'è Federico Rampini da Los Angeles che ci parla delle elezioni di mezzo mandato, sfiduciato dalle urne e ora parte l'impeachment per il presidente Trump, è arrivato il suo giorno più nero. 0. Nelle elezioni locali di martedì i democratici hanno stravinto in Virginia, conquistando ampie maggioranze nelle sue camere legislative, sia pure di stretta misura. Il candidato di sinistra Andy Beshear ha dichiarato vittoria nel Kentucky con 5.000 voti in più del governatore uscente. I repubblicani hanno dovuto accontentarsi di mantenere sotto il proprio controllo uno stato del profondo sud, il Mississippi. E c'è la notizia del giorno, voglio riprendere la già data Radio Bullet, ma c'è una fotonotizia, va sempre su Repubblica, di una neo parlamentare, una donna che aveva fatto il dito medio a un corteo mentre stava passando, e lei era in bicicletta e stava passando un corteo di Trump. È conosciuta appunto per questa foto che la ritraeva mentre pedalando in bicicletta mostrava il dito medio al passaggio del convoglio di Trump. Julie Brixman, così si chiama, è stata eletta con i democratici nelle elezioni locali in Virginia. La donna, oggi 52enne, a seguito di questo gesto fu licenziata dal datore di lavoro, si è presa la sua rivincita battendo l'avversaria repubblicana. In Virginia i Dem hanno strappato ai repubblicani il controllo dell'intero Parlamento. Ancora sempre dall'America, scendiamo più a sud e parliamo del massacro in Messico. Il piccolo Devin, un eroe mormone, e la lunga fuga per salvare i suoi fratelli da questo attentato di stampo dei mafiosi e spacciatori. 23 chilometri a piedi per raggiungere la fattoria dei Lebaron per lanciare l'allarme, un arresto per la strage. Sono stati i Narcos, lo dicono tutti, piccole ma feroci bande nate dopo l'arresto del Chapo e la dissoluzione del suo cartello di Sinaloa. Senza il re sepolto in prigione, restano le seconde file che cercano di conquistare altri territori. Sì, parlavi di Trump, il sogno democratico. Abbiamo il Kentucky, cadrà la Casa Bianca, ma il viaggio per la strada per le presidenziali è lunga. Secondo il Fatto Quotidiano di Giampiero Gramaglia, i sondaggi sono chiari, Trump vincerà ancora, speriamo che si sbagli davvero, oppure si inverte la tendenza, altrimenti il mondo va in briciole. E devo dire che Trump è sconfitto alle urne anche dal Corriere, e i suoi ambasciatori lo scaricano sull'Ucraina, minacciò Kiev su Biden, i democratici vincono in Kentucky, Virginia. Insomma, giornata nera per Donald Trump, ma secondo il politologo Charles Kupchan non sarà l'impeachment a batterlo, infatti sono le questioni sociali che battono non battono la politica. Warren rischia di spaventare gli indipendenti che abbandonano il campo trumpiano. Questo è il quadro, che è insomma un momento difficile per Trump. E con questo noi siamo arrivati in fondo alla nostra lettura dei giornali, non però siamo pronti per l'ultimo servizio, che riguarda Crash. Perché cosa, su quali sono le novità su questo argomento, su questo versante? Attraverso un bando comunale Cresce si è visto assegnare l'ex centrale del latte di Corticella. Ora è partito un progetto per la sua rigenerazione che prevede anche un crowdfunding. Questa sera ci sarà una presentazione al Parco delle Caserme Rosse. A questo punto, salutandovi, ascoltiamo la voce di Luca di Cresce. Risentirci comunque domani alla stessa ora. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Dal giugno scorso, gli spazi dell'ex centrale del latte di via Corticella 129 sono stati oggetto di messa al bando da parte del Comune di Bologna. Ad ottenere la loro gestione sono state le assemblee e le reti sociali del laboratorio Crash, che è un'esperienza politico-culturale attiva sul territorio bolognese ormai da più di 15 anni e che ha più volte recuperato negli anni passati attraverso l'auto-organizzazione immobili pubblici e privati lasciati all'incuria, al degrado, per trasformarli in spazi accessibili alla popolazione cittadina, proponendo eventi culturali, teatrali, laboratoriali all'interno dei propri spazi. Il laboratorio Crash è riuscito a portare sul territorio bolognese nomi come Stefano Benni, Valerio Evangelisti, Zero Calcare, Di Schianto, i Massive Attack, i Batcock e tanti altri, soprattutto anche tante crew locali che hanno potuto avere uno spazio che ospitasse la loro proposta artistica, e tantissime persone che hanno potuto godere di eventi culturali di alto livello a prezzi estremamente accessibili a tutti e tutte. Come da sempre però il nostro agire, che è quello del laboratorio Crash, è sempre stato incentrato sulle parole d'ordine dell'antifascismo, dell'antirazzismo, dell'antisessismo, dell'inclusività, della solidarietà. In questo modo, in questo momento, dove finalmente anche la tutela dell'ambiente, la lotta contro il cambiamento climatico e la devastazione dei territori è stata posta anche all'ordine del giorno da milioni di uomini e donne di tutto il mondo, vogliamo costruire nello spazio